anche un po' di noia. Amore, quando hai ancora fame. Amore, quando è lei la più bella del reame. Ma vieni qua. Aperto. Amore, un tavolo incasinato assai. Una goccia nel deserto. Amore, un viaggio che non finisce mai. Ma vieni qua. L'amore è quando ti sai disinnescare. L'amore, amore è, e tuo amore sei.